riflessioni su Luigi Zoia e sul concetto di desiderio. Citando Levine, una coppia che non evolve è un sistema, sono due sistemi di desideri in conflitto. Da dove viene la parola desideri? Qual è l'etimologia? Da desidera. Desidera significa smettere di affidarsi alle stelle. Quindi smettere di affidarsi a una volontà, a un'intelligenza più grande, smettere di essere parte del fiume della vita. Il desiderio, e soprattutto l'attaccamento al desiderio, significa uscita dal fiume della vita, caduta nella pozza della nevrosi e quindi della sofferenza innecessaria. Occorre distinguere tra preferenze, che sono morbide, e desideri a cui ci attacchiamo, che diventano duri. Desideri, più attaccamento, diventano bisogni, doveri, schiavitù. Qualunque desiderio a cui ci attacchiamo diventa fonte di schiavitù, di sofferenza e di separatività. La piccola mente si attacca ai desideri, ci si identifica. La grande mente li osserva mentre nascono, senza giudicare e senza attaccarsi. Il discorso appena fatto sui desideri vale per le convinzioni. Se noi ci attacchiamo alle convinzioni, queste diventano i nostri padroni, creano schiavitù, nevrosi, barriere. Diverso dall'attaccamento alle convinzioni sono le preferenze, cioè anziché attaccarmi a una convinzione posso temporaneamente affidarmi e dire ma io preferisco questo per il momento, considerarlo un modello locale di attesa. Questo non crea barriere. Le convinzioni più dure sono i dogmi, sono convinzioni blindate rispetto all'esperienza. Queste sono le barriere più rigide che ci siano. I dogmi in campo spirituale sono un controsenso, sono una contraddizione in termini, un ossimoro, perché lo spirito non può esistere senza la libertà. Spirito e autoritarismo sono assolutamente incompatibili. Lo spirito e il potere dominio, la gerarchia che impone i modi di osservare il mondo, è un classico esercizio appunto che è fatto nella storia dalle élite per mantenere il potere sulle masse. I dogmi, le convinzioni rigide sono sostanzialmente delle difese. Domanda, difese da chi? Sembrerebbe difese dagli altri che la pensano diversamente, ma se guardiamo in profondità, la prima difesa è nei confronti di se stessi e della propria ombra, dove albergano le convinzioni del tutto opposte. Mi difendo dagli altri significa, se guardi in profondità, mi difendo da me stesso, dalle parti di me che devo tenere in schiavitù o negare per non intaccare le mie convinzioni consce. La terapia è un luogo dove imparare a trasformare convinzioni dure, blindate e chiuse in convinzioni morbide, aperte al dialogo, ad altre possibilità. Sotto questo aspetto, una terapia non può prescindere dalla filosofia. La filosofia significa amore per la conoscenza. L'amore per la conoscenza significa messa in discussione delle proprie premesse e delle proprie convinzioni. Il collegamento quindi tra terapia e filosofia è imprescindibile. Non è possibile terapia senza filosofia e non è possibile filosofia senza terapia. Un filosofo che non indagasse la propria vita emotiva inconscia non potrebbe dirsi tale a rigore, nel senso che si limiterebbe a razionalizzare le cose che lui non conosce, cioè le pulsioni inconsce. Dunque, se la terapia è revisione, rimessa in discussione attraverso il dialogo, possiamo dire che l'essenza della terapia e l'essenza della filosofia, in qualche modo, vengono quasi a coincidere. C'è distinzione, ma non c'è opposizione. Nel linguaggio dell'essere, e quindi nell'utilizzo del metamodello 2, terapia, filosofia, ma anche educazione si tengono insieme. Ma si tengono insieme anche all'economia, alla politica. Cioè l'essenza di qualunque disciplina o pratica è tale in quanto dialoga con tutte le altre. Altrimenti non siamo più in presenza dell'essenza, ma siamo in presenza di uno specialismo, di un attaccamento a una particolarità che rende impossibile una visione d'insieme. Citando Panikkar, la frammentazione della conoscenza che oggi avviene attraverso gli specialismi porta a una frammentazione del conoscente, cioè dell'uomo stesso. È una forma di deumanizzazione. Chi alberga al suo interno dogmi e convinzioni chiuse pratica le necessità al giudizio, è implicito. Se io giudico, se io ho una convinzione forte, è chiaro che considero io di avere ragione e gli altri torto. E se gli altri hanno torto, questo e sono convinto, emetto implicitamente un giudizio. Quindi, chi ha dogmi, alberga al proprio interno dei dogmi e delle convinzioni rigide, pratica il giudizio e quindi la separatività, la difesa, la barriera. Tutto questo ha le sue radici nella paura. E questo è il tipico loop che porta le persone poi a allontanarsi sempre più dalla realtà.